Allora, questo è il secondo incontro che l'ARS ha messo in piedi. Il primo è stato fatto 2 settimane fa sulla questione se la Libia è un caso a parte o meno. Ne parleremo pure oggi perché è uno dei punti centrali della discussione. Poi ci saranno altri due incontri nelle prossime settimane. Questo incontro di oggi vuole riflettere con un titolo di questo tipo, Assetti postcoloniali e transizione democratica, su diciamo, le interazioni sia dei processi storici con i nuovi sviluppi politici della situazione. Io brevemente farò una breve introduzione, i nostri oratori sono Costantino Di Sante, storico, Fabrizio Maronta delle di Limes, e al posto di Alfio Nicotra, però abbiamo il piacere di, anche perché è un caro amico, Giovanni Russo Spena, che interverrà al posto appunto di Alfio. Ora, io quello che vorrei dire è questo, vorrei cominciare con leggendo dalla lettura di 2 commenti che ci sono stati, che ho visto sia in questi giorni, proprio uno stamattina e ieri sul Manifesto, uno su Repubblica e uno sul Manifesto, cioè uno è l'articolo di Tarben Giallone sulla Repubblica e quello invece, le due pagine sulla situazione in Egitto, sulla situazione dopo gli scontri dell'altro ieri al Cairo e non solo. Allora, lì ci sono due punti, insomma, quello che mi ha colpito. Tarben Giallone è un articolo, di riflessione più complessiva, ma fondamentalmente è segnato da una grande, da un grande ottimismo, dal fatto che manifesta fondamentalmente, un ottimismo verso una riuscita oggettiva, del processo democratico in questi paesi. E quindi lo assume come un punto non reversibile. E quindi questo è, mentre invece il manifesto ieri, però lo dico perché mi ha molto colpito, anche perché poi la questione si deve porre anche all'interno della discussione dei fatti concreti, mentre invece nel manifesto prevaleva un pessimismo sull'esito democratico della rivoluzione egiziana in primo luogo, ma anche in un altro degli articoli con grandi dubbi anche sulla rivoluzione tunisina. Ora, io penso che indubbiamente ciò che è successo in Egitto con gli scontri, con il riemergere di Mubarak, con l'emarginazione dei piccoli partiti di sinistra, insomma, indubbiamente fa capire che probabilmente qualche giudizio un po' affrettato all'inizio, che tutto fosse una primavera dei popoli molto, che stesse un po' lì a cogliere un frutto già maturo, questo probabilmente non è. E, non è l'89, ecco, non è l'89 come qualcuno ha detto, perché la prima cosa che si è detto è come l'89 quando sono caduti i regimi comunisti, no? Quindi questa là pure è stata una cosa complicata e complessa, tuttavia in effetti c'è stato un crollo di quei regimi. Non è così in questo, non è così, e quindi la prima questione secondo me è questo, per cui mi ha molto colpito il carattere pessimistico degli articoli del manifesto, perché indica un po' un'illusione politica che abbiamo avuto sulle magnifiche sorti progressive, lineari di questo processo. Ora, che siamo di fronte a un evento di proporzioni enormi, questo è del tutto evidente, perché poi dopo in questa fase ci sono rivolte praticamente in tutta l'area, c'è un confronto adesso, c'è uno scontro molto, molto pesante e quindi che mette in campo mette in discussione sia gli equilibri interni che oltre gli equilibri internazionali, e questo ne abbiamo all'internazionale a livello mondiale, sia appunto tra quei paesi e sia a livello delle grandi potenze. Ora, la molla che ha fatto scattare la rivolta, come abbiamo detto, sta nell'esigenza di democrazia e di giustizia sociale, fondamentalmente. Qualcuno l'altro giorno, Caridi, questo studioso di Chicago, diceva, islamista, dice fondamentalmente è il frutto del catastrofico sviluppo della globalizzazione, cioè la mette, non ne mette nei termini nel senso della riduzione del potere d'acquisto, e non solo, e anche della riduzione delle condizioni di vita di questi paesi. Quindi di questi 30 anni, di queste tre decadi appunto anche di globalizzazione. Ora, il punto che a me interessa vedere è che questa esigenza di democrazia e giustizia sociale, questo grande sommovimento, ha avuto successo per il momento in due stati, o quantomeno successo, hanno cacciato insomma i presidenti della Repubblica, gli autocrati, i tiranni, in Tunisia e in Egitto. Quelli più simili dal punto di vista sociale, anche se tra di loro ci sono delle differenze, poi spiegherà Maronte, spiegheranno gli altri anche meglio queste questioni, e anche una più variegata società civile. Negli altri paesi questo non è avvenuto, e questo secondo me è un punto di riflessione, perché l'idea di transizione democratica, che sia una transizione tranquilla o quantomeno non... Sì, insomma, che alla fine è un destino, è questo, un destino avviato, e questo mi sembra un punto su cui riflettere. Anzi, negli altri paesi c'è qualcosa di più, perché c'è una repressione micidiale in Siria, Yemen, siamo quasi sull'orlo delle guerre civili anche in questi piccoli paesi. In Libia c'è la guerra civile. Non è un caso a parte, però c'è la guerra civile. In Marocco la situazione è diversa, insomma, in Arabia Saudita hanno regalato tutto ciò che era possibile regalare per evitare difficoltà politiche. Ora, questo è un punto molto importante, e diciamo concordo però con un elemento che diceva il manifesto ieri, che è indubbio che nello stesso tempo anche in Tunisia forse anche meglio, c'è una maggiore strutturazione, ma là in Egitto c'è anche un processo che può rischiare di non di arenarsi, ma sicuramente ha delle difficoltà. Ed è vero, come dice appunto, come si racconta nella cronaca, giusto, che chiaramente in questa fase prevalgono le forze più moderate anche all'interno dell'Egitto. E negli altri abbiamo detto appunto repressione, lotta molto aspra, insomma è aperto un confronto nel complesso del mondo arabo. Ora, insieme, quello che è importante, interessante di questa fase è che in questa area è emersa, oltre all'esigenza di democrazia e giustizia sociale, una opinione pubblica araba democratica che più ampia, no? Che abbiamo ritrovato e ritroviamo nelle rivolte, nella voglia di democrazia e di libertà. Ora, l'altro punto è questo, perché questa è un'area, come tutti sappiamo, ecco, e qui entra un po' il punto dell'assetto coloniale. Non è la prima volta che ci sono rivolte, no? Rivolte anche molto forti in quel mondo. La prima rivolta al Cairo fu nel 1800 contro i francesi, cercarono di mandarli via, non ci riuscirono, ci riprovarono nel 1882. E ci sono state tante altre rivolte, la repressione in Siria nei primi anni del Novecento. Cioè, quindi non è la prima volta che c'è una fiammata, anche non di questa portata, talvolta molto ampia, in quell'area. È chiaro che quello era la fase in cui si è allargato ulteriormente, come battaglia contro l'invasore, contro il paese colonizzato. E tuttavia, nello stesso tempo, bisogna anche dire che processi, costituzionali erano stati anche avviati con la disgregazione dell'impero ottomano nei paesi che di quell'area, anche in area. negli stessi grandi stati che erano stati, che appunto oggi sono interessati a questo intervento, sono sempre stati queste imprese costituzionali e democratiche sabotate chiaramente dalle grandi potenze che avevano interesse a mantenere il proprio rapporto di potere. Quindi il rapporto di potere forte, cioè una cappa di piombo su questo. Ora, il punto, quando è caduto l'assetto coloniale tradizionale, qui è una riflessione, diciamo l'assetto invece coloniale o l'influenza esterna che è avvenuta poi invece con la guerra fredda, e qui c'è probabilmente una discussione c'è da fare, lì secondo me è una delle fasi in cui ha tarpato le ali anche alle forze più anche laiche da questo punto di vista, sia nella battaglia, nella confrontation tra, e che lì è stata molto forte, poi c'è stata la questione di Israele, quindi c'è stato un assetto che pur crollando quello diciamo coloniale tradizionale, sempre su quell'area c'è stata questo confronto come in tutto il mondo, ma lì molto pesante, che ha tarpato le ali alla società civile, alle forze culturali più ampie. In più, finita la guerra fredda, sono vent'anni che tutta quell'area sta sotto, diciamo, l'ala protettiva quantomeno degli Stati Uniti d'America, cioè gli Stati Uniti d'America sono coloro i quali garantiscono e hanno garantito la possibilità di poter stare al potere alle cricche che in questo momento sono state cacciate. Quindi la transizione democratica lì dipende diciamo da come c'è una reale autonomizzazione da questo processo diciamo che ha in questi vent'anni ha tenuto a bada specialmente nel rapporto con Israele, perché poi il punto di fondo è questo, il rapporto tra Israele e Stati Uniti. È lì la questione della glaciazione del Mediterraneo, il rapporto della difesa di Israele nelle forme e nei modi che questo ha avuto in questi anni. Quindi io penso che questo punto mi sembra molto importante, io penso che questo sia uno degli elementi su cui riflettere. L'altro, e concludo brevemente, la cosa che appunto comunque è molto interessante è che in questa fase di riassetto, come possiamo dire qui, postcoloniale, in cui prevale in due paesi c'è la possibilità di un'avanzata democratica, ma difficile, negli altri c'è una guerra civile di fatto, in una c'è una guerra in cui l'Occidente si impegna per una parte obiettivamente per c'è nello stesso tempo, per quanto riguarda l'Europa, anche dal punto di vista delle mire coloniali o postcoloniali dei paesi europei, anche il rischio di una rottura dell'Europa complessiva su questo punto. Perché mi pare che poi in questa fase noi abbiamo questo processo che agisce, interagisce anche sulle spinte interne o su favorire o meno i gruppi di potere o i gruppi di pressione, o i gruppi culturali o i gruppi politici che possono dare o meno una svolta. Quindi io penso che questo sia oggi un punto importante, cosa che a me sembra necessario, e concludo, e quindi poi do agli altri in modo tale, io proprio tre idee, insomma, cioè, che mi sono venute in mente riflettendo su questo, è che ci sia bisogno oggi di un confronto che miri da parte nostra a sviluppare queste esigenze di democrazia e di giustizia sociale che gli vengono. E tuttavia, questo rimane un interrogativo. Allora, oggi l'interrogativo che do ai nostri relatori è come è pensabile oggi una transizione democratica reale, dentro questi contorni, questi confini, che sono molto problematici e che indubbiamente comportano anche una rivisitazione complessiva degli equilibri e dei modi d'essere del rapporto internazionale. Io darei, questo io ho concluso brevemente, darei la parola a Maronta, perché poi ci deve lasciare presto, e quindi per una relazione di contesto, poi do allo storico. Sì, sì, abbiamo parlato tutto, d'accordo. Vai. Sì, ti ringrazio Giorgio per la ampia introduzione che mi dà veramente il là. Mi fa veramente gioco perché quando Giorgio mi ha chiamato qualche giorno fa, la settimana scorsa, dice guarda, vorremmo parlare del fallimento, diciamo, il tema della serata sarà il fallimento fondamentalmente delle decolonizzazioni, cioè per quale motivo noi siamo arrivati al 2011 con queste popolazioni, anzi 2010-2011 perché in realtà sono iniziate a dicembre scorso, con queste popolazioni che sono costrette a impugnare le armi contro i loro dittatori, quando invece 50 anni fa, 60 anni fa, sembrava che la decolonizzazione dovesse portare insomma, questi paesi a migliorare la loro condizione, non invece a una condizione di sclerotizzazione delle leadership e di sostanziale sordità delle stesse rispetto alle palesi e crescenti necessità, insomma, di popolazioni che si trovano spesso prive di tutto o quasi. Io ho detto ok, va bene, però poi riflettendo in realtà mi è venuto in mente che la chiave di lettura che vorrei dare a questa breve, spero non noiosa, così chiamiamola dissertazione con parola grossa sul tema, è che in realtà secondo me noi qui stasera e negli altri contesti in cui parliamo diciamo, di quello che sta succedendo in Nord Africa e che potenzialmente potrebbe succedere con echi e conseguenze ancor più grosse in Medio Oriente, non è tanto il fallimento della decolonizzazione, quanto secondo me, ne parlavo prima per l'appunto di iniziare, la fine di quella fase che è seguita alla colonizzazione propriamente detta e che non è stata chiamata così, ma è stata chiamata con un termine un po' diverso, cioè il cosiddetto neocolonialismo, per differenziarla dalla prima. Perché la colonizzazione propriamente detta è stata fondamentalmente l'assoggettamento economico, politico, sociale di paesi a altri paesi, cioè alle madrepatrie. Poi c'è stata la decolonizzazione, che è stata poi fondamentalmente, scusate se banalizzo fenomeni molto complessi, ma insomma per capirci ad essere brevi, quella fase che va sull'onda della Seconda Guerra Mondiale e fondamentalmente del crollo delle madrepatrie, soprattutto europee, e quindi diciamo tra i primi anni 50 e le ultime propaggini con l'Angola e il Mozambico, quindi le colonie portoghesi a metà degli anni 70, è stata la indipendenza politica formale di questi paesi dalle rispettive madrepatrie, ma questo ha inaugurato, e appunto per questo ringraziavo Giorgio perché l'ha citato ed è un elemento secondo me fondamentale, cioè è l'elemento, ha inaugurato questa fase di indipendenza politica, un'altra fase paradossalmente in alcuni casi più lunga della colonizzazione propriamente detta, in cui in realtà in ragione della fondamentale povertà di questi paesi sotto una serie di punti di vista che non sono solo quelli economici, ma sono anche quelli spesso culturali, cioè nel senso politici, la mancanza di istituzioni, cioè paesi che erano la cui struttura istituzionale, economica, sociale era stata fondamentalmente impostata dalle madrepatrie come propaggine delle loro economie e delle loro istituzioni politiche, quindi con società magari molto vive, ma con istituzioni e sistemi economici che al momento dell'indipendenza politica ricalcavano in tutto e per tutto le esigenze delle madrepatrie, questi paesi si sono trovati di fronte a problemi enormi fondamentalmente di riconversione economica, ma anche di costruzione di leadership politiche. E che cosa hanno fatto? Stante anche la nostra, nel senso occidentale, dell'ex madrepatria, interessata poca collaborazione in questo senso, sono caduti fondamentalmente in una forma di dipendenza economica e quindi di conseguenza anche politica che si è perpetuata nel tempo. La mia suggestione, diciamo, il mio suggerimento così analitico che vorrei condividere con voi e su cui poi mi piacerebbe, tempo permettendo, sentire la vostra, è che in realtà quello è molto difficile, come dire, riconoscere la storia, vedere negli eventi, diciamo, la storia che si svolge mentre questi eventi per l'appunto sono in corso. Quindi è possibile che non sia così, ma secondo me è ben probabile che quello a cui stiamo assistendo oggi è l'inizio della fine per l'appunto della fase neocoloniale. Perché è molto difficile dire in questo momento se quelle a cui stiamo assistendo sono rivoluzioni propriamente dette o se l'esito di queste rivoluzioni saranno più o meno cruente, saranno diciamo delle vere svolte in senso democratico, comunque dei riassetti istituzionali e economici che portino a qualche cosa di molto diverso dai regimi che abbiamo conosciuto fino adesso in quei paesi, o se invece tutto si risolverà, come del resto è spesso accaduto nella storia più o meno recente, in operazioni di maquillage, diciamo, istituzionale, che in qualche modo perpetuino forme di oligopolio e oligarchia economica e politica su popolazioni fondamentalmente sfruttate. Quello che però secondo me è piuttosto probabile è che i regimi che usciranno, i paesi che usciranno, gli assetti istituzionali che usciranno da queste rivoluzioni saranno degli assetti che soprattutto in virtù, diciamo, di una pressione popolare sconosciuta in molti paesi fino adesso, almeno in questa misura, saranno propensi a essere in qualche modo più nazionalisti e meno disposti, diciamo, ad avere nei nostri confronti quel ruolo di subalternità che in qualche modo li ha resi un po', in alcuni casi, e penso all'Egitto soprattutto, i notabili, in particolare in questo caso degli Stati Uniti, di scelte strategiche e assetti strategici decisi per l'appunto altrove. E questo è particolarmente vero per paesi che, tra l'altro, a differenza di altri, per esempio della Libia, hanno diciamo anche una loro tradizione storica e una loro tradizione culturale che prescinde e precede di molto l'esperienza coloniale. Sicuramente l'Egitto è uno di questi, ma penso all'Iran per esempio, e tra l'altro abbiamo un precedente storico notevole da questo punto di vista, che è la Turchia, che è un paese che sotto molti aspetti non rientra nei canoni diciamo puri ed altipici della democrazia parlamentare o comunque della democrazia liberale come la intendiamo noi, e che comunque anche nei paesi che si dicono e si riconoscono come democrazie compiute spesso, diciamo, ha dei livelli di realizzazione diversi, ma che comunque è un paese tutto sommato, diciamo, stabile, tutto sommato, diciamo, democratico, quantomeno dal punto di vista, diciamo, del funzionamento istituzionale e della necessità della leadership di rispondere comunque alle domande, diciamo, alle richieste dell'opinione pubblica, ed è un paese per l'appunto che ha un'alta concezione del proprio ruolo nel mondo, lo stiamo vedendo, diciamo, in questo periodo con questa svolta che ha compiuto la Turchia in chiave, diremmo, quasi neo-ottomana, diciamo, di rivolgersi praticamente all'Oriente per, diciamo, come sua sfera auspicata di influenza o ambito di realizzazione della propria politica estera, rispetto invece a un Occidente, in particolar modo in Europa, diciamo, dalla quale ha preso un po' troppe porte in faccia probabilmente. I presupposti perché questa svolta, diciamo, post-neocoloniale si realizzi, in effetti a ben guardare ci sono. Io avevo portato delle carte e purtroppo non posso proiettare, ma insomma, tanto per tracciare delle coordinate di fondo. Molti di questi paesi, Medio Oriente, soprattutto in Medio Oriente, devo dire, cioè paesi arabi o comunque medio orientali e paesi africani, sono paesi estremamente diversi fra loro, ma che hanno delle caratteristiche comuni che li rendono in qualche modo potenzialmente esplosivi o comunque potenzialmente poco stabili dal punto di vista della conservazione di uno status quo per molti aspetti ormai che non può più reggere, ormai inconciliabile, diciamo, con le caratteristiche sociali dei paesi stessi. Innanzitutto sono paesi estremamente giovani, questo è qualcosa che si è sentito dire, però io raramente ho sentito dati demografici puntuali su questo aspetto. Insomma, in particolar modo per quanto riguarda i paesi arabi che hanno una popolazione tra i 350 e i 400 milioni, nella maggior parte di questi paesi il 50% o addirittura in alcuni casi quasi il 70% della popolazione ha meno di 25 anni. Cioè stiamo parlando di una struttura demografica che nel mondo occidentale, anche nei paesi occidentali demograficamente più da questo punto di vista dinamici, per esempio gli Stati Uniti, grazie soprattutto all'immigrazione latinoamericana, non si vede ormai da un secolo probabilmente, o quasi. E sono per l'appunto paesi in cui una popolazione giovane è fondamentalmente deprivata di qualsiasi aspettativa, da cricche, come le chiamava Giorgio, comunque establishment, leadership fondamentalmente senescenti, fondamentalmente autocratiche, che fanno un uso di fatto privatistico della rendita energetica quando questa c'è, sicuramente è il caso dell'Arabia Saudita, ma anche il caso dell'Egitto che esporta gas a Israele per esempio, è il caso sicuramente della Libia, E sono paesi in cui, tra l'altro, di conseguenza, il livello di reddito medio, sebbene alcuni abbiano un reddito medio più alto di altri, per esempio l'Arabia Saudita, per esempio la Libia, cioè i paesi più petroliferi, in realtà è molto più basso di quello che potrebbe essere date le risorse, diciamo, di cui questi paesi dispongono. E sono paesi, parliamo di paesi, in cui comunque quello che manca spesso non è la ricchezza, ma è un meccanismo redistributivo della stessa. Da questo punto di vista, mi è fatto piacere che Giorgio abbia citato prima l'Arabia Saudita un po' scherzosamente, dicendo che la leadership saudita, la casa Saud, ha tentato di comprare la popolazione. Insomma, io non so se l'avete letto, l'avete sentito, ma quando i moti di piazza a Riyadh sembravano prendere corpo, nel giro di una notte, stante l'assenza chiaramente del passaggio parlamentare, che rende tutto più facile in questo caso, il governo saudita ha approvato aiuti alla popolazione per quasi una cifra, diciamo, che si aggira intorno ai 30 miliardi di dollari. Questo è stato deciso in una notte, e questi non sono soldi che i sauditi hanno dovuto prendere in prestito da qualche parte, come facciamo noi andandoli a chiedere alla Cina. Erano soldi che avevano, perché erano chiaramente, fa parte della rendita petrolifera. Cioè, questo secondo me è un aneddoto di per sé simpatico e terribile al tempo stesso, che dà la misura di quale ricchezza molti di questi paesi, soprattutto, ripeto, quelli che dispongono di rendite energetiche, potrebbero usare in effetti per migliorare le condizioni delle loro popolazioni. E invece questi sono paesi in cui, quando la speculazione internazionale punta una commodity agricola, il grano, la soia, il riso, e quindi fa crescere il prezzo, oppure quando l'investimento in biocarburanti fa crescere la domanda di mais, la domanda di mais cresce e cresce il prezzo, le quotazioni del mais alla borsa Mercy di Chicago, che è un po', diciamo, la Wall Street, insomma, delle materie prime, lì la popolazione scende in piazza perché i prezzi dei generi alimentari di base si aumentano del 10%, del 15%, per noi è caro vita e per quelle popolazioni è fame. Quindi stiamo parlando di una, proprio di una discrasia, veramente, io direi proprio di una divergenza totale tra, diciamo, le leadership politiche, l'uso che queste leadership fanno delle ricchezze, qualora ci sono, e in molti casi ci sono, e la condizione delle popolazioni. Quindi è chiaro che sono paesi fondamentalmente, potenzialmente instabili. E come però, appunto, andrà a finire, questo è tutto un altro paio di mani. La differenza fondamentale tra i paesi, diciamo, in cui abbiamo assistito a rivoluzioni fino adesso, cioè in particolar modo l'Egitto e la Tunisia da un lato e la Libia dall'altra, è che, per dirla proprio in sintesi, in Egitto e in Tunisia esiste uno Stato, in Libia no. Perché in Egitto, su questo chiaramente poi il collega sarà sicuramente molto più sessuoso di me, non voglio assolutamente rubargli il campo, anche perché lo farei in modo molto meno competente, insomma, da dove la Libia è il suo campo. Ma insomma, noi in Egitto e in Tunisia abbiamo un'istituzione che è l'esercito, che si è fatta chiaramente da garante, e non l'abbiamo in Libia. E verosimilmente non l'avremmo per esempio in Arabia Saudita, che è un altro Stato e che è la grande posta in gioco di queste rivoluzioni, soprattutto per, diciamo, l'ordine petrolifero mondiale, quindi la stabilità anche dei nostri mercati, delle nostre economie, perché l'Arabia Saudita, al pari della Libia, è fondamentalmente, diciamo, una creazione del colonialismo europeo. Insomma, i confini, diciamo, dritti per migliaia di chilometri lo attestano sulla carta geografica, senza doversi addentrare, diciamo, in ulteriori indagini al riguardo, e sono paesi, diciamo, che si configurano fondamentalmente come delle satrapie, in cui non c'è un'istituzione leale allo Stato come c'è in Turchia, come c'è in Egitto, come c'è in Tunisia, cioè in questo caso l'esercito. Ma anche i paesi in cui questa lealtà c'è, penso soprattutto all'Egitto, che è molto più della Tunisia un paese, diciamo, strategico, perché è demograficamente vasto, ha 80 milioni di abitanti, che poi in realtà alcune stime collocano anche di più, perché molte persone non registrano i figli per non fargli fare il servizio militare, che non è esattamente, diciamo, il nostro, quando c'era, ma è qualcosa, diciamo, di un po' più impegnativo e anche rischioso. Quindi è un paese demograficamente vasto, è un paese al canale di Suez, ed è un paese che comunque tradizionalmente dà un po', segna un po' dà un po' la, diciamo, indica un po' la direzione che segue poi il resto della regione, diciamo, del Nord Africa, storicamente, dove va l'Egitto, normalmente tendenzialmente è andato il Nord Africa. E da un punto di vista dei trend, diciamo, economici, sociali, ma anche politici. Ebbene, diciamo, in quel paese in effetti c'è l'istituzione che si fa garante della continuità, l'esercito, un esercito tra l'altro che ha un notevolissimo interesse a che la stabilità, che la transizione sia, diciamo, tra virgolette morbida e stabile, perché, ne parlavamo anche di questo prima di iniziare, in realtà dopo il 78, dopo la pace di Camp David e quindi gli accordi con la pace firmata con Israele, in realtà, come già successo per l'appunto, come mi si ricordava prima, in Turchia, per convincere, tra virgolette, l'esercito israeliano praticamente a rinunciare alla guerra allo Stato ebraico, gli è stata data carta bianca nell'ingresso nell'economia. E questo fa dell'esercito non solo un'istituzione patriottica, ma anche un'istituzione fortemente, soprattutto parlo delle altre sfere, dei generali, fortemente interessata alla stabilità economica del paese, perché in realtà, diciamo, i generali egiziani, in carica o no, hanno, per vie più o meno dirette, interessi in una quantità di attività economiche che vanno dai resort turistici, non tanto quelli del Mar Rosso, ma alcuni anche, alle compagnie telefoniche, alle imprese di costruzione, ai centri commerciali, insomma c'è veramente un po' di tutto. Quindi questo è potenzialmente una garanzia di stabilità. Allo stesso tempo è però, e soprattutto quindi dal punto di vista dei rivoltosi, è un ostacolo, perché chiaramente c'è un, diciamo, questa istituzione rappresenta un blocco di potere molto difficile da scalfire, e la vera sfida, e che è poi la grande incognita della transizione egiziana adesso, è se e in che misura i rappresentanti di Piazza Tahrir, quindi fondamentalmente questi giovani poi di fatto fondamentalmente laici, fondamentalmente veramente interessati, diciamo, una svolta in senso liberale, diciamo, del paese, riusciranno a accedere alla stanza dei bottoni e quindi, fuor di metafora, ad avere voce in capitolo nella riorganizzazione istituzionale e potenzialmente anche economica, per l'appunto, dell'Egitto. L'altra grande incognita dell'Egitto, e la cito non tanto perché voglia parlare dell'Egitto, ma perché mi sembra esemplificativa delle incognite che queste rivoluzioni presentano in generale, è chiaramente l'elemento islamico. Ora, le rivoluzioni in Egitto e in Tunisia sono state, ripeto, rivoluzioni fondamentalmente laiche. Gli slogan che abbiamo sentito, che quantomeno ci sono stati riportati, erano slogan, diciamo, che inneggiavano la libertà, la democrazia, che non inneggiavano la jihad, che non inneggiavano al califfato islamico. Il che non è scontato, perché stiamo parlando comunque di paesi, diciamo, musulmani, in cui, soprattutto, diciamo, nell'ottica, direi, da questo punto di vista piuttosto isterica occidentale, il pericolo islamico potenzialmente si annida sempre. Questo pericolo islamico, vero, potenziale o reale, in Egitto prende un nome specifico, che è quello dei Fratelli Musulmani, che è un partito che fu creato nel 28 da un maestro di scuola, di fatto, del Cairo, egiziano, Hanna, il quale diede vita a quella che all'inizio era una confraternita e che poi nel tempo si è evoluto praticamente in quello che attualmente è l'unica vera forza di opposizione che ha resistito alla repressione, alla dura repressione che questo partito ha avuto durante tutta la fase postcoloniale egiziana, perché tanto Nasser, quanto Sadat, quanto Mubarak hanno ripetutamente represso i Fratelli Musulmani. Lo hanno fatto, e questa è una delle ragioni per cui l'Occidente, in particolar modo gli Stati Uniti, sono stati così esitanti a mollare Mubarak al suo destino, perché, diciamo, Mubarak, come del resto Gheddafi in Libia e Ben Ali in Tunisia, rappresentavano anche un argine alla penetrazione, diciamo, di elementi percepiti come elementi islamici più o meno radicali. Non l'hanno fatto tanto, chiaramente, per solidarietà, diciamo, con la notta antiterroristica occidentale ultimamente, o per profonda convinzione nella necessità di uno Stato laico, quanto perché chiaramente queste forze rappresentavano una forza di opposizione, quindi un elemento di disturbo di fatto al regime. Sta di fatto che, diciamo, i Fratelli Musulmani oggi rappresentano, ripeto, l'unica vera forza di opposizione al momento organizzata, che ha una sua storia e una sua capacità anche di penetrazione, diciamo, potenzialmente dell'establishment in caso di elezioni veramente libere e rappresentative. Ora, i Fratelli Musulmani hanno tra l'altro varie versioni, non ce ne sono solo in Egitto, fratelli, partiti dei fratelli musulmani, diciamo, o nuclei del partito stesso si trovano in Siria, si trovano in Libano, si trovano in, diciamo, in vari paesi dell'area nordafricana e medio orientale. In generale, nel caso egiziano, è un partito che di fatto ha subito un'evoluzione che l'ha portato su posizioni per alcuni aspetti molto meno estremiste di un tempo. Certo è che comunque, e quindi da questo punto di vista, il cosiddetto pericolo islamico paventato soprattutto, diciamo, bisogna dirlo da questo punto di vista, dalla destra repubblicana negli Stati Uniti, è, diciamo, un pericolo che allo stato attuale non appare, diciamo, così imminente. Certo è che però, su questo torno, diciamo, dal punto di vista dell'esito eventualmente nazionalista di queste rivoluzioni, certo è che un ipotetico governo egiziano in cui i fratelli musulmani dovessero avere un peso determinante o addirittura prevalente, sarebbe un governo verosimilmente molto meno propenso, per l'appunto, e disposto, come dicevo prima, a essere, diciamo, a ricoprire un ruolo di vidimatore, ecco, di una politica, soprattutto per esempio rispetto a Israele, ma in generale anche rispetto, per esempio, ai diritti alle tariffe di transito nel canale di Suez, tanto per fare un altro esempio cogente per noi per quanto riguarda l'Egitto, di scelte per l'appunto invece di interessi altrui, in questo caso occidentali, e in particolar modo statunitensi, ma non solo. Per quanto riguarda la Libia, io mi limito a dire, e questo rientra, diciamo, nel capitolo fine o comunque come dire, potenziale fine dell'ordine neocoloniale. Secondo me la Libia è un caso veramente da manuale da questo punto di vista, perché al di là delle dinamiche interne, appunto, di cui diciamo, credo ci parlerà il collega con molta più perizia di me, la Libia secondo me scopre il bluff occidentale in maniera veramente palese. Cioè, quello a cui assistiamo in Libia in questo momento è fondamentalmente l'assenza di una linea politica occidentale, non solo europea, ma parlo anche euroatlantica, diciamo minimamente come dire, coesa e minimamente coerente. Perché di fatto a questa guerra di Libia ci siamo andati ognuno con una propria agenda. Gli Stati Uniti fondamentalmente perché non ne potevano fare a meno, dal momento che nonostante il grande impegno britannico e francese, la capacità bellica americana era indispensabile per diciamo, iniziare una no-fly zone. Tant'è vero che ancora adesso gli Stati Uniti, nonostante stiano cercando di ritirarsi il più possibile dalla campagna di Libia, chiamiamola così, continuano comunque a fornire un contributo fondamentale, perché gli Stati Uniti hanno, specialmente per quanto riguarda la forza aerea, hanno dei velivoli che sono fondamentali per una no-fly zone, che non è fatta solo di caccia, ma è anche fatta di aerei radar, aerei cisterne, tutta una serie di cose che diciamo, gli europei, pur volendo mettere insieme le forze, non dispongono. Gli Stati Uniti tra l'altro si ritirano perché fondamentalmente la Libia è un, come dire, è un dettaglio strategico, nel senso la Libia ha dal punto di vista di Washington una rilevanza strategica piuttosto limitata, lo ha molto di più per l'Europa, e anche perché gli Stati Uniti, diciamo, hanno comunque il grosso delle forze in questo momento impegnate in Afghanistan, non si possono assolutamente permettere di aprire un nuovo fronte di guerra propriamente detto, se per guerra si intende, diciamo, una campagna di terra, che è il grande spettro che, come dire, incombe sulla Libia in questo momento, e soprattutto perché si vogliono tenere giustamente, dal loro punto di vista, un margine di intervento laddove dovesse saltare il Medio Oriente, propriamente detto, e soprattutto la cassaforte petrolifera, cioè l'Arabia Saudita, perché questa è la grande posta in gioco di queste rivoluzioni dal punto di vista occidentale in generale, ma soprattutto statunitense. La Libia vale il 2% dell'export petrolifero mondiale, è un grosso problema per noi, perché tra gas e petrolio la Libia ci forniva prima, ma comunque continua, nonostante tutto, a fornirci quasi il 27% del nostro fabbisogno energetico. Gli Stati Uniti non importano una goccia di petrolio dalla Libia. L'Arabia Saudita vale il 10% dell'export energetico mondiale, e se i sauditi da soli sono in grado di compensare l'ammanco eventuale di export di petrolio della Libia, perché hanno una extra capacità produttiva che possono mettere in campo in breve tempo e compensare un eventuale ammanco libico, non già così per l'Arabia Saudita, perché se veramente, diciamo, un contesto, diciamo, di instabilità che può prendere varie forme, anche un eventuale spettro della guerra civile tra sunniti e sciiti, dovesse prendere corpo in un paese come l'Arabia Saudita, non ci sarebbe paese in grado di compensare, diciamo, l'ammanco di quel petrolio. E in un momento, tra l'altro, di ripensamento sul nucleare, chiaramente le fonti fossili sono ancora più indispensabili, per cui chiaramente, diciamo, quello è, da un punto di vista strettamente strategico, veramente la grande posta in gioco. E quindi che l'Unione Europea, insomma, in questa fase sia, come dire, si sia rivelata, diciamo, il fantasma politico che di fatto è, io temo, ahimè, non sia una grande novità, nel senso che di fatto da questo punto di vista noi stiamo, seppur il paragone mi rendo conto, diciamo, che è forse improprio per molti punti di vista, ma diciamo come dinamica di fondo noi stiamo assistendo praticamente a una riedizione di quello che è successo in Jugoslavia 15 anni fa. Cioè noi abbiamo una crisi alle nostre frontiere e non abbiamo una linea politica, perché non abbiamo un soggetto politico, diciamo, in grado di esprimere di fatto quella che poi a tutti gli effetti dovrebbe essere una politica estera. E questo si è detto e ridetto. Quello che secondo me invece è strategicamente più rilevante e che in prospettiva può veramente contribuire, diciamo, a un capovolgimento o comunque a un profondo ripensamento della relazione tra, per semplificare, ex madrepatrie ed ex colonie, è la debolezza statunitense, perché veramente è una condizione storicamente inedita quella dell'Occidente in generale e in particolar modo della sua principale potenza economico-militare, cioè gli Stati Uniti, quella di essere per l'appunto nella manifesta impossibilità di aprire un nuovo fronte di guerra. Cioè in questo momento i due principali eserciti occidentali, o nonché i due principali eserciti del mondo, cioè quello statunitense e quello britannico, non hanno sufficienti soldati, e non è, guardate, un'esagerazione, cioè è la realtà, per operare, per dar vita a una campagna di terra con massiccio uso di fanteria in un paese come la Libia, che comunque non è un paese piccolo. Dunque noi siamo di fronte, diciamo, a una condizione di fatto storicamente inedita, cioè quella di un Occidente, che lo si voglia vedere come alleanza atlantica o no, che, diciamo, in questo momento vede fortemente compromessa la sua forza di deterrenza militare. Questo in prospettiva è, secondo me, una condizione che, diciamo, governi, futuri governi, diciamo così, post-rivoluzionari, secondo me, con un minimo di intelligenza politica, dovrebbero sfruttare. Cioè, se io fossi, diciamo, il presidente del governo egiziano post-Mubarak, io tenterei di sfruttare questa condizione a mio vantaggio. Non chiaramente muovendo guerra agli Stati Uniti, non sto parlando di questo ovviamente, ma diciamo strappando condizioni più favorevoli nel mio rapporto, diciamo, con l'Occidente. E, tra parentesi, dato che come dire, a volte la storia offre la possibilità di fare analogie forse un po' ardite, ma comunque stuzzicanti, mi piace ricordare che da questo punto di vista l'ultima volta che Francia e Gran Bretagna hanno iniziato di loro iniziativa una guerra è stata, diciamo, nella guerra di Suez, e ci vogliono gli Stati Uniti per l'appunto per porre fine a quella guerra, cacciare praticamente l'Inghilterra dal Nord Africa e confinare praticamente la Francia nel Maghreb di fatto. E speculare chiaramente, e mi avvio alla conclusione, alle difficoltà americane sono chiaramente le difficoltà israeliane. Insomma, Israele nel giro praticamente di un anno o poco più, diciamo di un paio d'anni via dall'elezione di Obama, si è vista venire meno, diciamo, tutta una serie di capisaldi veramente fondamentali. Innanzitutto una Casa Bianca particolarmente filo-israeliana. Questa Casa Bianca non è certo anti-israeliana, ma diciamo l'amministrazione Obama è molto meno filo-israeliana di quanto lo fosse quella Bush. Israele aveva già, prima, diciamo, della crisi in Egitto e del venir meno di Mubarak, era una garanzia per Israele, si era vista venir meno, comunque profondamente attenuato, il rapporto con la Turchia dopo l'operazione Piombo Fuso a Gaza del 2008, e di fatto diciamo, i rapporti con la Turchia, l'altro grande, non dico alleato, ma insomma diciamo, paese amico, ecco, della regione per Israele, aveva molto raffreddato i suoi rapporti fino, diciamo, all'episodio della flottiglia di Gaza che ricorderete. E Israele vede in difficoltà, in crescente difficoltà, le monarchie sunnite. anche grazie al fatto che gli Stati Uniti hanno provveduto a togliere di mezzo Saddam Hussein, che era il principale argine alle mire espansionistiche o comunque alle mire di grande aree iraniane, che è un paese sì musulmano ma non è arabo e è sciita peraltro. Per cui che cosa sta accadendo per Israele? Cosa sta accadendo? Sta accadendo che potenzialmente potrebbe cadere, diciamo, la maschera della come dire, impresentabilità dei regimi arabi. Questo secondo me è, anzi direi secondo noi, perché è diciamo, un'opinione che condividiamo all'IMES, è un po' la cifra di fondo, è il grande pericolo strategico di fondo per Israele. Cioè Israele ha impostato di fatto tutta la sua politica di sicurezza e soprattutto la sua, direi ontologico, il suo ontologico rifiuto, categorico rifiuto di trattare con i palestinesi, ma in generale con i regimi arabi, sulla base del fatto che Israele è una democrazia e che quei paesi non lo sono e che quindi in quanto tale non solo sono moralmente non legittimati a trattare con una democrazia alla pari, ma non essendo democrazie, essendo governati da leadership autocratiche e fondamentalmente dittatoriali, sono anche paesi intrinsecamente inaffidabili. E devo dire, con tutte le colpe di Israele, da questo punto di vista, diciamo, Tel Aviv o Gerusalemme, a seconda diciamo, di dove dal punto di vista non israeliano o israeliano si voglia collocare la capitale di Israele, comunque aveva le sue ragioni. Ebbene, se veramente in prospettiva si installa una vera democrazia, o comunque una democrazia passabile, diciamo così, in Egitto per esempio, o in Siria, o in Giordania, chiaramente questo paravento viene meno e questo chiaramente è potenzialmente un pericolo. Un'ultima battuta sulla democrazia, perché tu Giorgio hai ripartito dal, e poi chiudo, da quest'illusione che ci sta accadendo di fronte agli occhi dell'espansione diciamo, della democrazia come destino ineluttabile, no? La fine della storia, Fukuyama se ricordate. Secondo me qui dobbiamo stare attenti diciamo, a cosa intendiamo per democrazia, perché forse è anche possibile che questi paesi siano come esito ultimo alla fine più democratici diciamo, dei regimi che hanno abbattuto o che stanno tentando di abbattere e probabilmente questa loro maggior democraticità che diciamo, in termini poi alla fine diciamo così, tecnici e essenziali si configura come quindi una maggior necessità delle leadership politiche, dell'establishment economico e politico di questi paesi di tener conto delle richieste per l'appunto dell'opinione pubblica, è probabile che tutto questo darà luogo, come dicevo all'inizio, diciamo, a una forma di nazionalismo maggiore rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino adesso e quindi a una minor propensione di questi paesi a essere, diciamo così, subordinati o potenzialmente subordinati, fondamentalmente subordinati ai nostri desiderata. Il problema però è che secondo me la cifra diciamo, dei nostri tempi, specialmente se questa ondata rivoluzionaria dovesse continuare, e potenzialmente investire anche altri paesi, penso per esempio alla Cina, tanto per dirne una, è che probabilmente noi dovremmo venire a patti, e mi rendo conto che è difficile, con l'idea che la democrazia sia un concetto relativizzabile. Cioè che il concetto di democrazia come noi lo intendiamo, cioè democrazia come sinonimo di democrazia liberale, sia in realtà un prodotto storico di un contesto geografico e di un periodo storico molto ben determinato che probabilmente non è riproducibile tal quale altrove. Io mi rendo perfettamente conto, diciamo, che questo è un'argomentazione, un discorso molto scivoloso perché si presta, diciamo, accuse di essere un discorso fondamentalmente reazionario. Però di fatto, secondo me, noi dovremmo cominciare a chiederci seriamente se, e questo è qualche cosa che ci saremmo dovuti chiedere prima, per esempio prima di andare in Iraq, se in realtà, o prima di intraprendere diciamo, una missione in Afghanistan che fin dall'inizio aveva la pretesa di esportare la democrazia tal quale, se effettivamente questa democrazia sia esportabile non solo e non tanto in punta di baionetta, perché in questo caso è facile dire di no, ma anche se sia esportabile con i nostri standard laddove a chiederla siano queste stesse popolazioni. Cioè se l'esito ultimo in questi paesi debba essere per forza e necessariamente una democrazia diciamo, piena e soprattutto pienamente liberale, quindi diciamo in una piena cornice di rispetto dei diritti individuali, delle libertà economiche, come noi la conosciamo. Perché questo potrebbe voler dire ragionare su un falso storico, cioè sulla pretesa, diciamo, che questo modello sia effettivamente per forza l'esito ultimo, anche laddove il cambiamento sia promosso per l'appunto da istanze sociali che provengono da questi stessi paesi e non sia un tentativo di imposizione dall'esterno, come per l'appunto si è tentato di fare in particolar modo in Iraq. La mia risposta chiaramente è che spererei di no, cioè spererei che in realtà la democrazia non fosse un concetto relativizzabile, però diciamo questo è il mio auspicio umano, diciamo così, emotivo. Da un punto di vista razionale io non posso però non pormi questo interrogativo e lo pongo anche a voi come elemento di discussione, perché secondo me questo è qualche cosa con cui dovremmo avere lungamente a che fare nei prossimi anni, specialmente se per l'appunto queste istanze di maggior democraticità si moltiplicano e non saranno destinate a spegnersi in paesi che, diciamo, tradizionalmente non hanno per l'appunto un passato di democrazia alle spalle e non hanno, diciamo, quelle condizioni sociali che, diciamo, nel periodo che va tra la rivoluzione francese alla costituzione americana hanno favorito, diciamo, il nascere degli ideali democratici, della pratica democratica come noi la conosciamo in Occidente. Grazie. Grazie. Grazie a Fabrizio. Il punto della democrazia, io prima di una battuta, non è un punto molto importante, perché io penso che noi siamo in una fase di crisi della democrazia anche in Occidente e quindi il concetto di democrazia è più forte, anche più esportabile nel senso, diciamo, di ideale, se in Occidente c'è una forte convinzione della democrazia. Mentre in Occidente ultimamente c'è un utilizzo, come dire, anche un po' una crisi di fondo, una crisi reale e anche un'utilizzazione abbastanza, diciamo, capziosa talvolta di questo concetto. Quindi questo è un punto secondo me molto importante, perché il dubbio, quello che dice Fabrizio, che ringraziamo, è uno degli elementi di fondo della discussione. Allora adesso Costantino Di Sante sulle radici storiche e sociali della crisi libica. Grazie innanzitutto per l'invito e all'associazione che ha organizzato questi momenti di riflessione. Si sente? Questi momenti di riflessione. In realtà, visto anche i temi messi sul tavolo dai relatori che mi hanno preceduto, in particolare la convincente relazione di Fabrizio Maronta sulla domanda iniziale, come può avvenire una transizione democratica? Io cercherò di fare un punto sulla Libia, però per alcune questioni che cercherò di evidenziare, a mio avviso dobbiamo tener conto, ecco, appunto, di un contesto più ampio del Mediterraneo, e mi volevo riallacciare ad alcune questioni prima di entrare nel merito specifico, ecco, della crisi libica. Da un punto di vista storico e anche di conoscenza di questi popoli, se vogliamo, o di queste nazioni, di quello che sta accadendo, noi abbiamo un analfabetismo di conoscenza storica, mi permetto di dire, che poi abbiamo visto quando anche nei vari momenti di quello che è esploso in Medio Oriente c'è stato riportato sui giornali, in alcuni casi si trattava ampiamente di disinformazione, penso all'immagine del cimitero di Tripoli, io conosco bene come fossa comune, diciamo, quella è una delle più evidenti, ma Gheddafi o 50.000 morti, vabbè, tutta una serie di cose che ci sono state propinate, ma a mio avviso quello che è mancato è proprio una conoscenza forse europea del passato coloniale. Il fatto stesso che non conosciamo anche come opinione pubblica, anche come bagaglio culturale, cos'è stato per esempio l'impero ottomano in quei territori, che per 500 anni, grosso modo, ha tenuto insieme un bacino importante, e dall'altra anche i guasti del certo tipo di colonialismo, che vale un po' per tutta l'area, vale in particolare per le cose che sono state dette, come abbiamo inventato poi delle nazioni, come abbiamo messo insieme territori, regioni molto differenti, tribù che avevano loro spazi sia di gestione del territorio e anche di organizzazione sociale, culturale e politica, oltre che economica. E su questo siamo, come dire, in deficit enorme nel comprendere poi le evoluzioni attuali. L'altra questione, andando avanti, sulla decolonizzazione, che se è vero per la Tunisia e l'Egitto, per restare a queste due realtà avvenuta con movimenti, l'Egitto ha un caso ancora a parte rispetto alla Tunisia, se vogliamo, se non, per non parlare dell'Algeria e della, però per restare un po' un'idea di decolonizzazione che parte da movimenti autoctoni, noi abbiamo per esempio il caso libico che ha una sua specificità, cioè una colonia persa con la guerra, non con un processo di decolonizzazione. E questo crea un altro deficit nel comprendere quello che accade dopo la Seconda Guerra Mondiale. E l'altro elemento, questo tentativo di tracciare un asse storico di lungo riferimento, è l'altra questione del panarabismo, che ha condizionato la fase pre, durante e dopo la decolonizzazione. E su questo la Libia di Gheddafi è un altro esempio particolare di quel tipo di panarabismo, diciamo, di Nasser, oppure di quello che poi doveva coinvolgere quel bacino. L'altra questione appunto è l'islamismo, che a mio modo di vedere, poi ci tornerò sopra, nonostante le prese di distanza e quello che noi, diciamo, vediamo in televisione, però può essere un elemento che coagula alcune anime diverse, in particolare mi permetto di dire in Cirenaica. Perché se è vero che a Piazza Tahrir e anche alcuni movimenti egiziani e tunisini non hanno questa specificità, però abbiamo visto tutti cosa innalzano poi i, tra virgolette, ribelli in Cirenaica. Questa non è una mia presa di posizione, però rifletto su quello che vedo. No? E su questo anche lì comprendere la storia della Cirenaica e della Senussia in particolare vuol dire capire anche quello che sta succedendo oggi. E concludo con un'ultima cosa rispetto a questo panorama di quadro generale. L'idea, ecco, poi tornando alle ultime questioni, della democrazia esportabile, che noi abbiamo avuto una chiave di lettura poi rispetto a quello che stava accadendo come la primavera dei popoli, dimenticando tutta una serie di episodi. In primis, ecco, è vero che uno degli elementi scatenanti è il prezzo anche lì del caro vita che lì diventa fame, ma il simbolo in Tunisia è quel giovane che si dà fuoco, che nel nostro immaginario collettivo occidentale ci ricordano, no, altre primavere, no? E quindi anche da un punto di vista giornalistico, emotivo, giustamente abbiamo associato anche facilmente quest'idea della primavera dei popoli, non capendo che lì non siamo nella Slovacchia o in Ungheria o nei paesi dell'est europeo, ci troviamo in un'altra realtà, con altre estetificazioni sociali, con un'altra tendenza culturale, politica ed economica. E nonostante poi effettivamente questo ragazzo, che sapete, no, la storia, taglieggiato più volte da polizia corrotta, gli sequestrava il carretto con cui lui cercava di vendere le sue cose, nonostante questo esempio, poi bisogna fare i conti con la complessità di queste società e anche le aspirazioni di quella stratificazione poi sociale che rappresenta la parte più cospicua, che è fatta di giovani. In questo quadro la Libia ci interessa non solo, a mio avviso dobbiamo interessare in maniera più drammatica per quello che sta succedendo, secondo me una guerra civile che poi era facile prevedere, ma la crisi libica mette a nudo anche la nostra incapacità, paese ex colonizzatore, di fare i conti con tutta una serie di questioni, nonostante anche i rapporti ultimi, no, di amicizia, di collaborazione e di scambi reciproci. Chi più dell'Italia doveva, come dire, avere il polso della situazione? Parlo anche in questo caso non solo di una mancanza di gestione politica nella politica estera, ma anche, come dire, di controllo geopolitico del territorio, no? Da un punto di vista di cosa fa la nostra ambasciata lì, la Farnesina, cioè mi pongo questo problema, visto che poi accadono delle cose e non... anche ma metto in campo anche la nostra informazione, cioè chi fa il mestiere di giornalista su quei territori, perché mi permetto di citare, io frequento la Libia dal 2006 per ragioni di studio e ero lì per i 40 anni di Gheddafi, e eravamo dentro questa nave sulla rada del porto di Tripoli con i giornalisti italiani, e tutti di voi ricorderete la manfrina delle frecce tricolori, sparano il verde, il rosso, il blu, il tricolore, storia inventata. Ero lì con i giornalisti e dicevo: ma perché fate questo? Sì, ma vedi, non gli hanno fatto fare le esercitazioni. Fa parte della disorganizzazione di un paese che ha delle strutture molto... cioè il Ghibli, non possono alzarsi... cioè, è chiaro, c'è una difficoltà, tutta la città blindata. È venuta fuori questa cosa delle frecce tricolori, poi l'avevano già fatto, diciamo, per dire come si è capito poco anche da chi voleva entrare nel merito delle questioni, perché poi il riferimento spesso non è stato con... la popolazione libica, ma con dei referenti privilegiati che ti raccontano poi alcune cose e sai un pezzettino di verità. Non è un caso che ancora oggi, diciamo, dalla rivista francese, Jeune Afrique, oppure Le Monde Diplomatique, oppure i francesi, su questo hanno delle letture molto più interessanti, ma questo non è un'accusa, diciamo, a tutta l'informazione. Dico però che quello che viene riportato e che noi sappiamo è veramente disarmante proprio rispetto a questo rapporto che con la Libia abbiamo da tempo e negli ultimi anni, visto che poi anche come rapporti personali della nostra leadership, diciamo, con quei territori. E per questo io mi chiedo, no, perché più volte analisti, esperti anche di geopolitica, giornalisti hanno continuato a ribadire come questa situazione fosse impossibile da prevedere. È una domanda che ci dobbiamo porre: perché non è così imprevedibile poi in evoluzione in tutto il Maghreb, in particolare io penso alla Libia per quello che ci riguarda in questo caso. E ritengo che questa incapacità sia dovuta a quattro punti, sarebbero altri, ma mi limito a questi. Innanzitutto proprio questa amnesia del passato coloniale europeo, non solo italiano, per tutta l'area. Nessuno ha fatto i conti in maniera critica, al di là poi delle richieste, diciamo, di Gheddafi di pagare il contenzioso coloniale, però l'intera Europa ha quasi, no, dimenticato quello che era poi il rapporto con le loro ex colonie, e in particolare, se volete, la parte meno nobile, cioè quella repressiva, di controllo geopolitico, di sfruttamento economico. E questo vale ancor di più per l'Italia, che si è vista poi tagliata fuori dalla perdita della Seconda Guerra Mondiale, e quindi non ha assistito nemmeno, a parte la Somalia con l'AFIS, ma non abbiamo avuto poi il modo di ritornare, no, con un processo di organizzazione su quello che era stato il passato coloniale su quei territori. E questo scomodo passato, secondo me, pesa tantissimo ancora oggi, perché agli occhi ancora non solo neocolonialisti, ma quasi, diciamo, da colonialisti, noi guardiamo ancora, ecco, all'esportazione della democrazia come missione civilizzatrice. Questo è l'altro, secondo me, fenomeno di strambismo che ci troviamo, diciamo, di fuori a fare i conti. Quello che si diceva, no? Effettivamente, il concetto di democrazia, ma come lo intendiamo noi spesso, no? È che noi lì dobbiamo civilizzare dei popoli che se no non si fanno gestire, e quindi gli diamo un minimo di infarinata, di direttive, oppure, come dire, cerchiamo di appianare alcune divergenze o usando le armi o appoggiando, no, chi ci fa comodo, più o meno a seconda del momento. Per quanto riguarda la Libia, stando proprio a quello che è stato il nostro rapporto con quel territorio, visto che poi ci troviamo nei 150 anni dell'Unità d'Italia, bisogna ricordare che è anche il centenario della guerra italo-turca, il 7 settembre del 1911, 50 anni dall'unificazione italiana, no, anche quello fu solo per i problemi di politica interna di Giolitti, ma l'intervento anche per, no, rilanciare una politica economica sul Mediterraneo e tante altre motivazioni. Però come dire, in questo caso le celebrazioni anche in maniera drammatica rientrano anche su quello. E il contenzioso coloniale che noi abbiamo portato avanti con la Libia fino al trattato del 2008, detto di amicizia, è stato un trattato che anche qui, da un punto di vista della nostra riflessione, della conoscenza della storia coloniale italiana, ha avuto effetti così molto limitati, cioè non c'è stata un'iniziativa culturale su questo, non si è discusso tranne pochi ambienti accademici che hanno promosso qualche seminario, anche la stessa informazione in questo caso non ha chiarito bene perché non avevamo pagare questo contenzioso, da dove veniva fuori, quali erano state le condizioni precedenti, cioè c'è stata anche qui, da un punto di vista dell'opinione pubblica, non una presa d'atto e di coscienza di quello che era stato, diciamo, il colonialismo italiano, in particolare le violenze che venivano poi messe davanti, diciamo, come dire, agli interlocutori politici da parte di Gheddafi. E non abbiamo ricordato un aspetto, secondo me, fondamentale, è stato qui accennato, che la Libia non era, quando arrivano anche qui gli italiani contro l'impero ottomano, quella regione che conosciamo, la nazione che conosciamo oggi. Era già divisa in tre grandi regioni, Cirenaica, Tripolitania, Fezzan, e in più la Sirte, che già una cosa a parte, dentro c'erano almeno più di 36 tribù, nomadi e seminomadi, che gestivano il territorio, con poi la popolazione sulla costa, che era tutt'altra cosa rispetto alle tribù. In particolare voglio ricordare la presenza di una comunità ebraica importante che conviveva con quella musulmana e cristiana, una città come Tripoli, anche nelle nostre vecchie cartine urbanistiche, c'è, cioè, il cimitero cristiano, la sinagoga, il cimitero ebraico, quello musulmano, con una convivenza probabilmente fatta anche di attriti, che poi anche qui la guerra, Seconda Guerra Mondiale in particolare, renderà più drammatica fino a quello che poi conosciamo nell'immediato secondo dopoguerra. L'altro elemento è la violenza perpetrata su quei territori, no? Fin dall'inizio, quando si decide la deportazione dopo l'episodio di Sharashat, quando fu l'occupazione, diciamo, lo sbarco dei nostri militari, questo quartiere che adesso è totalmente inglobato nell'urbanizzazione di Tripoli, dove la popolazione libica si ribella e massacra un intero contingente di bersaglieri, e da lì parte la repressione con la deportazione dei civili libici nelle nostre poi colonie di detenzione, famose poi prima per soggiorno, diciamo così, di briganti anche mafiosi, e poi per antifascisti, Tremiti, Ustica, Famignana, Lipari, dove tuttora esistono anche qui dei cimiteri come segni anche di memoria sul nostro territorio di quella che è stata, diciamo, anche lì una conseguenza di una deportazione di civili lasciati in condizioni, diciamo, estreme. E anche questo nella memoria, per esempio anche qui, e le differenze delle memorie costruite in Tripolitania e in Cirenaica, questa parte qui della memoria delle deportazioni è molto ben presente a Tripoli. Fino adesso, l'ultima volta, no, due anni fa ancora, prima del trattato di amicizia, il 26 ottobre, c'era, cioè, il giorno del lutto, e tutta la città nei manifesti con le immagini, poi in parte trovi anche in mostra, della deportazione dei libici verso le colonie di detenzione italiana. Come dire, si è costruita una memoria molto interessante da un punto di vista storico anche qui su quello che era stato poi l'aspetto della violenza del colonialismo italiano, e ci dice anche molto di come Gheddafi la ricordi anche adesso questo aspetto, no, della lotta contro il colonialismo. Diversa la situazione in Cirenaica, perché se la Tripolitania, anche lì sconfitte, diciamo, le resistenze delle tribù duramente, e la Libia fu pacificata tra virgolette, poi sono tra il 32 e il 1931-32, non fu mai conquistata interamente, la resistenza continuò fino al 32 grosso modo, con delle grosse differenze, e all'inizio lì testammo i bombardamenti sui civili, noi italiani siamo stati i primi ad applicarli proprio in Libia, furono, no, quelli, e stesso discorso di Gaspari nel 24, ma già i primi bombardamenti aerei sui civili, i primi esperimenti, c'è cioè un libro che si chiama, no, Primi voli militari in, in Libia, proprio come bombardamenti per i villaggi. Ma al di là di questi aspetti poi di violenza, con la differenza poi con la Cirenaica, dove c'era la Senussia, che era questa organizzazione tribale basata su un ritorno a, come dire, un islamismo puro, basata su delle zawie che erano dei centri polivalenti economici, culturali e politici, che controllavano il territorio, che dalla metà, diciamo, dell'Ottocento si era sviluppata in tutta l'area, non a caso nello Yemen, in Egitto, in Cirenaica fino al Chad. Quell'area della Senussia aveva trovato, come dire, un proselitismo importante, si era radicata. La resistenza, guidata poi da Omar El Mukhtar, leone del deserto, tra l'altro il film ancora oggi, diciamo, rimane censurato, anche se poi Sky l'ha mandato l'estate scorsa in onda. Questa resistenza dura fino a quando non si decide, Badoglio e Graziani non decidono di deportare l'intera popolazione nei campi di concentramento, tra cui quello di El Agheila, campo di punizione, dove va a finire anche una parte della tribù di Gheddafi, nella Sirte, proprio sta lì non lontano da dove la famiglia di Gheddafi, lo stesso Gheddafi poi è nato in Sirtica, è il campo, chiamiamolo, più duro costruito dagli italiani. Dagli studi è difficile, perché all'epoca non c'era nemmeno, figuriamoci, l'anagrafe, ma sappiamo che, e non c'era nemmeno uno schedario dei campi, sappiamo che quasi il 40% della popolazione cirenaica morì o per le condizioni dirette o indirette subite durante questo periodo di deportazione e di repressione. E ci dice anche che la Cirenaica, già un territorio, tutta la Libia all'epoca aveva un milione, nel 1911, un milione spiccioli, diciamo, di abitanti, un territorio quasi tre volte e mezzo l'Italia, come si diceva, con differenza anche lì interessante, a deserto, altopiano del Jebel Akhdar, della Cirenaica, da un punto di vista geografico molto diverso, 2000 chilometri di costa, tra l'altro, poi ci torno su altri elementi. Comunque, ecco, questa storia noi c'è tornata di rimbalzo, ecco, su questa questione poi come rapporto anche politico ed economico con il trattato di amicizia, però quantomeno non è così presente nell'opinione pubblica, ma soprattutto nei nostri testi scolastici c'è pochissimo, quasi nulla, vi invito a controllare, e quindi c'è un alfabetismo proprio sostanziale, diciamo, di conoscenza. E per non parlare, ecco, perdiamo la colonia con la guerra, e nonostante i tentativi, qui la faccio breve, però cosa accade di questa nostra ex colonia? Che la Libia fu nuovamente divisa dagli militari alleati, con la Cirenaica fondamentalmente, poi nel 49 fu creata, diciamo, una struttura autonoma, furono gli inglesi un po' a dirigere verso Re Idris el Senussi, poi, perché la Senussia ha combattuto a fianco poi degli alleati su quei territori, il Fezzan sotto la Francia e la Tripolitania sotto il controllo militare inglese. E solo poi nel 51, sotto le guide dell'emiro della Cirenaica, fu creata il Regno Unito di Libia. No? Va ricordato anche questo, che si ritorna un po' all'idea di tenerla insieme, faceva anche comodo in quel caso dal punto di vista geopolitico. E se è vero che adesso per gli Stati Uniti, dal punto di vista strategico, io dico anche economico, sono stato proprio, sono, diciamo, di ritorno dagli Stati Uniti, per esempio lì il grosso problema attuale della Casa Bianca, nonostante la mancanza anche di soldati da inviare, hanno tagliato l'altro giorno tot di dollari per come spesa pubblica, e quindi capite bene che è un po' difficile giustificare l'invio, anche perché immaginatevi, a New York hanno tagliato i traghetti per la Statua della Libertà, per intenderci a che punto poi sembra incredibile, ma nonostante file, code di turisti, siamo a quei livelli. E le immagini della CNN mandate in ripetizione rispetto a quello che sta succedendo poi in Libia, immagini che ricorrono quotidianamente, l'immagine di quella donna, non so se l'avete vista, in Italia forse non ci sono stato ultimamente, ma che viene presa dall'albergo e difesa dal giornalista, no? E la catturano, adesso non si sa bene che fine abbia fatto, perché era, diciamo, anche qui della Cirenaica, forse è stata violentata, lei giustamente dava conto. E questa immagine, secondo me, è abbastanza inquietante, anche in modo con quale loro stanno ragionando sul da farsi. Però se adesso questa è la situazione, negli anni 50 invece la Libia era molto strategica. Non a caso gli inglesi e soprattutto gli americani avevano due delle basi più importanti, che erano poi Wilsonfield e Aden, in quei territori, una più grande base militare americana sul Mediterraneo, almeno in quell'area, pure perché c'è il canale di Suez, perché tutto quello che sappiamo, e all'epoca investirono 100 milioni di dollari in aiuti, poi arriverà il petrolio naturalmente. E questo provocò il primo boom economico per la Libia, però anche in questo caso la distribuzione fu totalmente all'appannaggio della famiglia di El-Senussi e anche di un certo clima di corruzione che fin dall'inizio aveva caratterizzato anche la monarchia senussita. E i cittadini totalmente poi messi da parte. I libici solo nel 52 hanno esercitato un diritto di voto, poi è stato tolto da Re Idris, i partiti non sono stati cancellati da Gheddafi ma già da Re Idris, quindi manca anche questo aspetto nella tradizione, diciamo, culturale e istituzionale. Nonostante Re Idris avesse riorganizzato alcuni punti, diciamo, come struttura amministrativa e burocrazia. E si arriva poi al 69 con Gheddafi, e questo è l'altro punto, diciamo, non capire da dove arrivi anche il consenso a Gheddafi, no? A parte chi lo dichiara pazzo, eccetera, in maniera molto superficiale e spicciola, ma non capire anche lì come Gheddafi non solo prende il potere, 27 anni, va al potere, in che modo, grazie all'esercito che poi spodesta la monarchia senussita. Anche loro giovani rivoluzionari, ma in particolare su cosa fonda questa sua politica fin dall'inizio? Innanzitutto su il ritorno a una tradizione libica, e la tenda un po' rappresenta questo, la visione della popolazione nomade, cercherò di stringere, se no non... nomade e seminomade contro le popolazioni sedentarie della costa. No? E questo è un altro, diciamo, elemento importante rispetto a come fin dall'inizio, no, l'esaltazione dei popoli dell'entroterra contro l'odio per esempio per la città iniziale, che ha come simbolo, diciamo, della sua politica. Poi l'altro aspetto importante è che come simbolo questa rivoluzione verde arriverà successivamente, ecco, il libro verde, diciamo, che lui cercherà di modellare un aspetto, chiamiamolo inizialmente socialista, poi con dei richiami al Corano, di modellare non solo la società ma anche la struttura istituzionale, smantellando tutto quello che c'era prima, quel poco che era stato creato dalla monarchia senussita, e di introdurre qui delle strutture di rappresentanza fatte dai cosiddetti, no, comitati popolari, e del congresso del popolo e l'esercito naturalmente, perché se oggi l'esercito è mercenario, all'inizio era stato quello che aveva condotto il colpo di Stato, e la sua stretta cerchia da Jalloud in poi sono di collaboratori, sono e provengono da quella struttura. E il libro verde, leggerlo è importante, magari fa sorridere per alcuni aspetti, ma ci dice molto anche della come dire, di come lui ha costruito un consenso intorno alla sua politica, per poi basare anche sulla politica antiimperialista e antisionista, gli altri due capisaldi della politica gheddafiana, che spesso vengono naturalmente, oltre che questa società utopistica del libro verde, vengono sbandierati, oltre che l'anticolonialismo. Arriviamo alla Libia di oggi. Gheddafi, no, dal 69 al potere, 42, controllo sicuramente poliziesco, il petrolio, i proventi del petrolio gestiti sia per corrompere in parte le tribù che gli sono ostili, in alcuni casi anche per reprimerle, perché in Cirenaica, qui va ricordato, la Cirenaica non solo è stata abbandonata e repressa, ma anche era l'espressione del vecchio leader Ersenussi, e quindi era logico che quei territori hanno ricevuto meno nella distribuzione. Poi va capita anche che attualmente la Libia ha 6 milioni e mezzo di abitanti, circa un quarto vive a Tripoli, quindi controllare Tripoli vuol dire molto, e controllare anche il consenso che ne deriva anche dalla Tripolitania, grazie anche a quello che ha ridistribuito, oltre che il controllo poliziesco della società libica. E per andare veloci, quando è che si incrina questo rapporto tra Gheddafi e questo consenso? Innanzitutto va ricordato che lui almeno ha subito una ventina di attentati, diciamo, che quindi sia l'opposizione non è che è stata a guardare, no? Sventati, anche questo ne ha fatto un mito, diciamo, anche questo lui l'ha utilizzato come mito. L'altra questione di Gheddafi, secondo me, è la sua capacità di gestire sia da un punto di vista geopolitico. Va ricordato anche quello che accade con i bombardamenti, diciamo, americani di Reagan, cioè lui già ha subito l'embargo che c'è stato rispetto alla sua politica internazionale. La sua politica interna è di consenso, ecco, ha rilanciato sempre con un nazionalismo che ha rinvigorito la rivoluzione verde. Questo è stato fatto anche negli anni difficili, nel corso degli anni 90, dove la Libia era duramente provata dall'embargo, però ha resistito nonostante tutto, e noi italiani, fu Lamberto Dini in particolare l'artefice, no, di tutto, già Andreotti prima, ma Lamberto Dini fu poi quello che ha portato e ha mantenuto il filo rosso fino al trattato di amicizia. E fu Massimo D'Alema il primo esponente ad andare e a rompere l'embargo, se vogliamo a fare in modo. Nel 95 ci fu a Barcellona il congresso dell'Unione, e lì ci fu un primo accordo Italia-Libia, e questo ha determinato, secondo me, una nuova fase nella politica e in come gli occidentali hanno visto la Libia, però anche qui in maniera totalmente sbagliata. L'abbiamo visto la Libia o come un luogo dove fare business appetibile, no? Da quel momento in poi, per le nostre imprese, l'Eni già c'era, non è mai andata via, e dall'altra la Libia che porta denaro contante e interviene a favore della nostra azienda. Anche lì nella Fiat già era entrata da prima, però, no? Poi sapete gli ultimi risvolti, per farla breve. Ultima questione, per andare all'oggi, dov'è che perde, a parte la Cirenaica che in parte si spiega con questo rapporto è già difficile con il fronte islamico, che lui già ha represso varie volte, già negli anni 90 ha represso duramente fondamentalisti, tra virgolette, islamici, e ancora, vi ricordate, a parte la maglietta di Calderoli, già nel 2006, se non ricordo male, ci fu, no, con l'attacco al consolato italiano e tutto il resto. E in Cirenaica c'è questa situazione, non bisogna negarlo, e questa preoccupazione poi, che la rivolta dei ribelli, capire chi sono anche questi ribelli, non è facile, chi è un interlocutore credibile dopo Gheddafi in quei territori. Dall'altra, quello che non è stato detto, ecco, chi sono questi giovani libici, cosa vogliono, perché cercano giustamente maggiori libertà. Dicembre ero lì, parlavo con loro, con alcuni amici che ho conosciuto durante la mia frequentazione. Il loro primo aspetto è consumare come noi occidentali, e il consumismo è stato sempre lo spettro di Gheddafi, no? Il consumismo nel senso, no, della corruzione, che poi lui naturalmente ha utilizzato in maniera diversa, e quindi l'oscurantismo che lui ha cercato di cui ha tentato di mantenere la società libica, è venuta meno con i nuovi mezzi di comunicazione. Una società così giovane, che lavorava e manteneva anche i vecchi e famiglie molto allargate, l'occupazione delle case, quando ero lì a dicembre era partita già l'occupazione delle case a Tripoli, perché nonostante il salario medio è di $1,600 più o meno, però lo stipendio di un libico è di 300 euro, 350 euro. Un pasto al ristorante costa 15 euro. Un albergo a 3-4 stelle, che poi è un 2 stelle italiano, sono 50 euro. Capite bene che non puoi consumare come un occidentale a quel punto, perché l'iPod o il cellulare costa come a New York, come a Roma, e l'app lo applica agli stessi prezzi, quindi non è facile. E loro invece il mito anche dell'Italia. Per concludere, questa società libica fatta di giovani, che è molto interessante, ha un livello di istruzione molto bassa. Non è così diciamo acculturata come quella tunisina e quella egiziana. In più in Libia non esiste una borghesia, perché in Libia fino a poco tempo fa c'erano su 6 milioni e mezzo c'erano altri 3 milioni e mezzo tra operai specializzati occidentali, immigrati, che fanno i lavori più umili, oppure come i nostri tecnici i lavori no? più importanti, manager e via dicendo. Anche l'impresa del turismo, erano holding occidentali o moltissime maltesi che gestivano, e la manovalanza in parte libica. Quindi è mancata questa. Misurata era l'unica città, e ci spiega molto di quello che sta succedendo a Misurata. Misurata non solo aveva un polo siderurgico, ma anche artigianale con i tappeti. Per il resto in Libia non si produce nulla, tutto viene importato, pochissimo. E i lavori anche in agricoltura, anche l'idea del cosiddetto poi canalizzazione delle acque importanti, non ha prodotto diciamo risultati sperati. Io ritengo che Gheddafi difficilmente cederà, concludo, cederà il potere, e penso che la transizione democratica, se ci sarà, sarà contrassegnata da una dura guerra civile, che naturalmente non fa ben sperare anche per gli equilibri del Mediterraneo, no? E di quella forse auspicabile primavera, che poi non so fino a che punto riuscirà ad avere una transizione democratica. Grazie, scusa per la... No, mi dispiace. Giovanni Russo Spene, noi alle 7:30 dobbiamo chiudere, quindi Giovanni... fai il suo intervento, poi vediamo, tu fai tranquillo il tuo intervento e poi vediamo. Tento di essere abbastanza bene. Io ringrazio innanzitutto non ritualmente l'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra, perché questo spazio, ringrazio le relazioni che mi sono state, i quesiti che ci ha posto Giorgio, perché io credo che questo spazio di riflessione sia estremamente importante, anzi mi fa piacere che il primo spazio di riflessione serio a cui appunto partecipo, a cui si possa partecipare, e credo questo fatto sia dovuto ad un grande effetto di spiazzamento che la sinistra italiana e la sinistra italiana hanno subito rispetto a quello che è avvenuto. Addirittura si è detto appunto giustamente del tutto inatteso, anche perché vi è indubbiamente un'alfabetizzazione tutta da costruire. Per quanto riguarda la politica internazionale, io ritengo appunto, e qui abbiamo avvertito appunto l'importanza, io ritengo che poi l'IMES con il suo punto di vista sia l'unica vera politica, l'unica vera rivista di riflessione geopolitica e internazionale che esiste nel nostro paese. Quindi è estremamente importante questa riflessione, che io credo parli anche di noi. Questo è il tema. Io voglio soltanto aggiungere appunto alle relazioni che vi sono state, come dire, quattro osservazioni che sono osservazioni che fissano un'agenda politica un po'. Ecco, l'ultima domanda che faceva Giorgio, cioè un'agenda politica su ciò che anche noi, insomma, sinistre italiane dovremmo fare. Quindi parto da un primo punto. Io non so se abbia ragione Wallerstein, mi riferisco alla tua introduzione, Wallerstein, quando vede nei giovani arabi un nuovo 68. Credo che dobbiamo ricercare a fondo, però alcuni aspetti, e io concordo con quello che diceva Giorgio, sono abbastanza visibili. Diceva Giorgio, movimento per la democrazia e movimento per la riforma sociale. Certamente, in maniera diversa ovviamente da paese a paese, insomma, poi lo dirò successivamente. Anzi, credo che in qualche modo noi dovremo, anche in questa sede, mettere a tema, mettere a fuoco, che è forte in qualche modo, addirittura in maniera diretta, l'elemento classista della rivolta. Io ricordo, lo dico, che non è poi soltanto un effetto, dentro la crisi della globalizzazione liberista non è solamente un effetto che si verifica in popolazioni anagraficamente, anche, come è stato detto giustamente, giovanissime, questo è già un effetto, è un paradigma che dovrebbe farci riflettere, ma anche in altri paesi. Io ricordo che ero appunto con Frisullo, il povero Frisullo, con Fava, Molinari e Nichi Vendola a fine gennaio del 94, quando scoppiò la rivolta zapatista appunto in Messico, siamo nel 94, e il subcomandante ci spiegava che praticamente la rivoluzione dei contadini della selva La Candona nasceva dal fatto che la borsa di Chicago aveva cambiato il prezzo del mais. Giustamente veniva ricordato da Maronta questo aspetto, cioè vi è un dato dentro la crisi della popolazione liberista di impoverimento della popolazione, un effetto immediato con il meccanismo dei prezzi dentro la crisi della globalizzazione. Quindi un movimento classista per la democrazia, insomma, credo che da questo dobbiamo partire, che allude appunto alla crisi della globalizzazione liberista e ai grossi processi di impoverimento che essa ha determinato, e che del resto in qualche modo, senza coglierne poi il portato, ma l'avevamo già analizzato anche con il movimento altermondialista, perché tutto sommato a Genova, ricordo di queste cose a Genova come nei forum internazionali, dobbiamo ricordarlo, abbiamo parlato a fondo di questi temi. Quindi io credo che noi dobbiamo stare comunque fino in fondo, senza nessun dubbio, con i giovani, con le ragazze che prendono parola in questo senso. E qui faccio la prima osservazione, proprio rilancio un tema per l'approfondimento che vi sarà anche nella prossima riunione, nella prossima sessione di questa riflessione. L'Europa, non solo la divisione dell'Europa, ma l'assenza assoluta dell'Europa è sul piano politico una mutilazione straordinaria, il fatto che non si siano messe in atto azioni di condivisione, di rapporti fra saperi, culture, professionalità, che appoggiassero una situazione dagli esiti non predeterminati, certamente di grande conflittualità e di aspra conflittualità, su questo non ho alcun dubbio, che anch'io, come diceva appunto Maronta prima, vedo come fase di decolonizzazione, diciamo giustamente, diciamo Maronta, come inizio della fine del neocolonialismo. Cosa intendo io per questo? Da un lato appunto il recupero di un nuovo senso di statualità, e qui appunto è proprio di noi che si parla. Dall'altra parte io penso che parliamo di processi di decolonizzazione rispetto a quel nuovo colonialismo che ovviamente ha dentro di sé anche aspetti di scambio diseguale classico, rapporti di dipendenza, rapina delle risorse, ma che è passata soprattutto attraverso due fasi, credo. I programmi di aggiustamento strutturale del Fondo Monetario Internazionale, per quello che hanno significato, non ho il tempo, poi tra l'altro l'avete tutti appunto analizzato a fondo negli anni scorsi, ma non bisogna dimenticarle, e dall'altra parte appunto ora veniva detto i trattati Italia-Libia e Italia-Tunisia, dove il trattato Libia ha un punto specifico importante che dimostra la povertà culturale dell'approccio europeo e dei governi di destra europei, ma non solo dei governi di destra, devo dire con qualche caduta anche di centro-sinistra verso quei paesi, nel momento in cui, non dimentichiamo, oggi appunto vediamo Maroni cosa sta dicendo in Europa, dove l'aspetto principale di questo neocolonialismo è la costruzione di gendarmerie con campi di concentramento contro i migranti per salvare l'Europa blindata di fronte a quella che viene chiamata lo tsunami, appunto, come l'ha chiamato il nostro lo tsunami umano, il nostro presidente. E comunque questa invasione di cui Blatter, appunto, il razzismo di Stato, che purtroppo, ma questo è un altro tema su cui dovremmo riflettere a fondo e mi sta molto a cuore, è nata anche una xenofobia di massa molto diffusa, perché il vero tema è che non basta dire quelli sono razzisti, ma poi dobbiamo ricostruire un'istanza democratica di condivisione dentro il nostro popolo, che purtroppo ne è stata. Ovviamente ci sono questi paradigmi della differenziazione razzista, del nemico interno, della guerra fra poveri, questi imprenditori della paura, quali sono appunto i nostri governanti, sono riusciti a infonderlo profondamente. Io vengo appunto da un convegno appunto a Brescia la settimana scorsa, appunto un convegno antirazzista in cui le analisi e i rapporti che venivano fatti sono in questo senso per noi preoccupanti. Dicevo, quando parlo di Europa, io credo, adesso lancio soltanto lì un tema, credo che noi dovremmo rileggere e anche riscrivere un po' la grammatica di quella che abbiamo chiamato, purtroppo soltanto residualmente, una parte, diciamo, della sinistra, e soprattutto una parte della sinistra meridionale, quella che abbiamo chiamato la regione euromediterranea, e mi riferisco agli studi di Amoroso, mi riferisco a una riflessione che vi è stata per 20 anni negli anni scorsi. Beh, è possibile che noi oggi non mettiamo a fuoco questo punto, cioè con quello che accade, sarà il nuovo 68 arabo, sarà il nuovo risorgimento arabo, comunque queste rivolte democratiche è evidente che pongono anche per noi sinistra italiana, sinistra europea, sinistra meridionale, i termini nuovi della costruzione di una regione euromediterranea, rendendola molto più attuale. Ora si può in qualche modo inverare, probabilmente sul piano delle soggettività politiche, appunto parlo di soggettività politica e non soltanto di analisi, quello che scriveva Le Monde Diplomatique, Ramonet, quando diceva la zona euromediterranea non può essere una mera zona franca, e invece l'Europa la vede come mera zona franca, ma sono critiche di 12-13 anni fa. Dopodiché nemmeno la zona franca euromediterranea ufficiale è andata molto avanti, si è fermata al convegno di Palermo, al convegno di Barcellona, ma probabilmente, io credo, vada riscritta l'attualità di questo tema per ricostruire le soggettività del sud d'Europa su obiettivi molto precisi. Amoroso le chiama costruzione delle aree di solidarietà. Beh, io credo che sia importantissimo, se noi veramente vogliamo criticare l'Europa di Maastricht, l'Europa di Lisbona, l'Europa carolingia, che critichiamo senza avere la forza e la massa critica in qualche modo per portare avanti questa critica, io credo che lo spostamento dell'asse del ragionamento strategico sulla regione euromediterranea con la costruzione anche di un programma comune, questo dovrebbe fare l'Europa nei confronti di queste, diciamo, di queste rivoluzioni, e parlo di strutture e infrastrutture, parlo di rivoluzioni ecologiche ed ambientali, parlo di mass media comuni, parlo di un mercato del lavoro che non sia fondato sui nuovi meteci, perché la clandestinità che affibbiamo ai migranti è questa, è la costruzione di nuovi meteci per il mercato del lavoro, per il mercato del lavoro globalizzato, per ricostruire appunto soggettività, considerando che noi siamo insomma al di qua e al di là, appunto sulle due sponde del Mediterraneo. Ecco, io credo, e questa era la prima riflessione, che tocca a noi ricollocare singole e fondamentali campagne, dai beni comuni al salario sociale, ad un'agricoltura autocentrata, che sarebbe importantissima nei rapporti con i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Pensate a cosa significherebbe il rivoluzionamento agricolo se passasse un'idea, una proposta di ciclo corto, appunto di democrazia zero, insomma, sarebbe veramente l'opposizione reale ai programmi del Fondo Monetario Internazionale, all'interno appunto di una concezione democratica e sociale che dia a noi stessi il senso storico, appunto, che noi non siamo, noi e questi paesi in senso coloniale, appunto come dipendenza, non siamo appendice marginale di questa Europa di Maastricht, ma la possibile griglia centrale e integrata di un'Europa mediterranea, appunto. Ma questo anche sul piano, è inutile dirlo, sul piano del pacifismo, sul piano della denuclearizzazione, ma anche questo è un tema che è nella nostra cultura, nella nostra storia, insomma, già Don Tonino Bello, no? Ci ammoniva prima di morire che saremmo diventati come penisola un arco di guerra nella nuova strategia della NATO, se non fossimo riusciti a costruire un'arca di pace mediterranea, antirazzista, appunto pacifista e così via. La Libia è certamente un caso a parte, ne ha parlato benissimo di Sante con grande competenza, non sto qui quindi a ripetere quale sia la specificità del caso Libia. Ovviamente siamo tutti contrari a questo ossimoro tremendo della guerra umanitaria. Forse, ecco, tu già davi una risposta Sante su questo, io credo che sì, temo che la situazione in Libia, la situazione di guerra civile, possa finire con la divisione del paese, cioè con la caduta della statualità, cioè forse con la ricostruzione di emirati libici molto simili agli emirati appunto del Golfo Persico Arabico. È possibile, insomma, una zona come la Cirenaica più ricca dal punto di vista petrolifero, in qualche modo quindi che diventa egemonizzata. In parte mi pare le manovre già ci sono, egemonizzate sia dal punto di vista della Francia, sia dal punto di vista degli Stati Uniti, e poi una Tripolitania più povera e con meno potere, insomma. Chomsky ha parlato di un destino da emirati libici, ecco, io non so. È uno degli interrogativi che giustamente Giorgio lascia aperto e che noi lasciamo ad una riflessione su cui però appunto dobbiamo in qualche modo svolgere una parte attiva anche politicamente. La seconda osservazione è questa, la diversità, e già lo tracciavate, vado velocemente, delle singole situazioni. Ecco, non dimentichiamo che quello che viene chiamato il risorgimento arabo riguarda in forme diverse lo svolgimento negli stessi tempi e quindi in maniera sconvolgente, scusatemi il termine, in tutti i paesi, perché è vero che la Libia, abbiamo visto, è un caso a parte, abbiamo parlato, poi ritornerò, di Tunisia e Egitto, ed Egitto come paesi in cui la struttura anche della società civile e politica in qualche modo era diversa, in cui comunque questo rivoluzionamento è più avanzato, però è tutta l'area appunto è profondamente sconvolta, anche in strutture statuali fra loro diverse. Sto pensando ora al Marocco, dove, se non ricordo male, a marzo il re ha promesso riforme, dove comunque esiste in qualche modo un processo riformistico molto timido in corso. A proposito del Marocco, non vorrei che non dimenticassimo il problema Saharawi. Anzi, forse, non è stato datato qui, ma insomma, forse il primo episodio di rivolta autonomista è stata quella del fronte Polisario, avvenuta 2 mesi prima di Piazza Tahrir, quando è stato sconvolto il campo principale appunto del fronte Polisario dalla polizia, dall'esercito che è entrato facendo una decina di morti, quindi anche cronologicamente. Comunque il problema Saharawi ce lo troveremo di nuovo davanti. La Giordania, dove il re ha cambiato il primo ministro ma continuano le agitazioni. La Siria, dove le proteste sono quotidiane e dove probabilmente vi sono massacri, soprattutto nella parte interna della Siria, bagni di sangue. Perfino in Iraq, nell'Iraq post-bellico, appunto ritornano in forme diverse appunto agitazioni popolari molto forti. Non parliamo del Bahrain, dello Yemen, dell'Iran avete detto, dell'Algeria, dove le autorità promettono innovazioni ma da febbraio impediscono perfino i cortei, quindi i cortei non vi possono essere. E non parliamo appunto dell'Arabia Saudita, che è il grande ventre molle poi dell'equilibrio globale di quelle zone, ma anche internazionale, se pensiamo al bilancio statunitense, e anche dal punto di vista dello scontro religioso, politico e fra credi religiosi che all'interno dell'Arabia Saudita trovano appunto nelle visce, trovano il ventemolo, e della questione palestinese, che potrebbe uscirne anch'essa profondamente modificata anche negli equilibri fra Ramallah e Gaza, perché non dimentichiamo che questo straordinario movimento di giovani palestinesi, ne ho incontrati alcuni appunto i giorni scorsi, che si stanno organizzando, pretendono finalmente l'unità della borghesia palestinese di Ramallah con con le forme, diciamo, più o meno di fondamentalismo che sono presenti a Gaza, considerando che sia a Gaza l'attuale governo, sia gli Hezbollah poi, il Libano, in qualche modo sono forme politiche, forme militari, ma sono anche forme di Caritas, insomma, di sostituzione dello Stato sociale. Quindi è una situazione di straordinaria rilevanza. E non vorrei che sottovalutassimo anche un problema che riguarda anche la Chiesa di Roma. Il cattolicesimo, che è già in assoluta minoranza appunto nel bacino del Mediterraneo, è in crisi in questo momento. Parlo di delegazioni che ho incontrato appunto nel corso di questo mese. È in crisi insieme ai regimi filo-occidentali. E questo è un problema appunto molto serio. La crisi dell'Africa settentrionale comporta, non c'è dubbio, il consolidamento del dominio dell'Islam. Su questo non c'è dubbio. Io poi sostengo, e ovviamente bisogna sconfiggere appunto le paure che vengono nella popolazione, da parte del governo, inoculate, questo non significa affatto, consolidamento del dominio dell'Islam non significa affatto consolidamento o deriva, come si dice, verso forme fondamentaliste. In verità non lo dice nemmeno la Chiesa ufficiale, il Vaticano nei giorni scorsi si è espresso in maniera molto prudente, anche se molto reticente, molto tiepida, ma molto prudente e tesa al confronto religioso. Insomma, vedremo cosa accadrà, ma analizzando appunto le due situazioni più mature sul piano del rivolgimento, dello sconvolgimento sociale, della rivolta, cioè Tunisia e Egitto, noi da questo punto di vista dobbiamo rilevare che nei suoi attori principali il movimento è profondamente laico, di islamismo laico, anzi devo dire che si arrabbiano moltissimo, incontrando appunto una delegazione di questi giovani, si arrabbiano moltissimo se li chiamiamo laici, loro si chiamano civili, lo chiamano islamismo civile, perché dicono che laico nella loro cultura appunto significa qualcosa di diverso, loro sono religiosi ma sono dei religiosi civili appunto e non fondamentalisti, quindi Il laico è ateo. Infatti, per loro laico appunto, per loro ateo, e quindi non vedono se stessi proiettati in questa dimensione atea. Loro sono religiosi civili, insomma. Io credo quindi che in questa situazione forse noi dovremmo analizzare più a fondo gli aspetti anche di formazione sociale, di queste transizioni democratiche o rivoluzionarie, e credo, Giorgio ci richiamava a una critica che partisse anche dalla realtà, appunto, io sono d'accordo che non ipostatizzasse i temi in qualche modo, si tratti di una rivoluzione o si tratti di un grande fallimento, siamo ottimisti o siamo pessimisti. Io ti rispondo così, sto pensando a un pezzo dei quaderni di Gramsci, appunto quando Gramsci dice vi sono situazioni di transizione appunto rivoluzionaria in cui il vecchio muore e il nuovo non riesce a nascere. Ecco, io credo che noi siamo esattamente in questa situazione. In Tunisia, dove il sistema politico appunto è più strutturato, anche l'intellettualità di massa, esisteva già prima, vi era, insomma, sappiamo quanto fosse repressa da un regime non solo poliziesco, ma che aveva una pervasività di controllo nei singoli pori appunto della società. Beh, anche dopo la caduta di Ben Ali sono fissate appunto il 24 luglio le elezioni di una costituente, questo appunto è l'obiettivo poi dell'effervescenza e del dinamismo popolare che vi è appunto in questi giorni, anche con la formazione di sindacati indipendenti, di nuovi partiti democratici e di sinistra. L'aspetto, credo, ecco, di pessimismo, diceva Giorgio, comunque l'aspetto in cui appunto il vecchio muore ma il nuovo non riesce a nascere, credo che nasca da quello appunto che i giovani tunisini chiamano, con una formula appunto nostra, europea, siciliana, chiamano un gattopardismo pericoloso e l'attribuiscono ho letto appunto un loro scritto, e l'attribuiscono a Obama, dicono che in questo momento appunto la politica obamiana è una politica gattopardesca, cioè il tentativo di appoggiare i cambiamenti affinché nulla cambi. Giorgio forse si riferiva appunto a un'intervista, quella di Ahmed Salah, quando parlava di pessimismo nei giorni scorsi, l'ho letta anch'io, un leader, forse il leader più importante della primavera egiziana, che diceva in un'intervista 48 ore fa, affermava amaramente che Piazza Tahrir è stata tradita dai militari, che la rivolta di piazza appunto è ripresa anche con degli eccidi e con una ferocia tremenda dell'esercito. Ferocia perché? Giustamente spiegano appunto questi giovani, una ferocia tremenda perché la prima nuova ribellione, insomma, la nuova casa Tahrir, quella di questa settimana, ha avuto inizio dal fatto che un pezzo dell'esercito, cioè gradi non elevati dell'esercito, sono scesi in piazza contro il potere militare e sono stati travolti, addirittura si parla di torture in queste ore, sono stati travolti appunto dalla ferocia del potere militare, che pure è quello che, come giustamente è stato ricordato nelle relazioni precedenti, è quello che poi si è reso garante, si è giustamente parlato della Turchia da parte di Maronta prima, però non dimentichiamo, mutatis mutandis, che comunque la Turchia è una forma democratica che comunque nasce da un colpo di Stato militare e dove praticamente la Corte Costituzionale è il potere militare. Quindi io sono d'accordo, il meccanismo turco potrebbe riprodursi come meccanismo in Egitto, ma non è un meccanismo di nuova democrazia, è comunque, e non parlo di democrazia liberale, sono anche d'accordo che i metri della democrazia non vanno giudicati con la democrazia liberale, con la rivoluzione borghese o con la rivoluzione francese. Esistono ovviamente, ma questa è una lunga discussione che non faremo qui, esistono ovviamente diritti universali, mi piacerebbe parlare appunto del velo, comunque non ne parliamo qui, ma è una grandissima discussione sul piano antropologico, oltre che sul piano democratico e costituzionale. Comunque dice Salah appunto che in Egitto è in atto una cospirazione evidente per mantenere il vecchio regime. E dice, prosegue, i militari guidati dagli ex uomini di Mubarak, come lo stesso capo del Consiglio Tantawi e molti membri del partito dell'ex Rais, hanno stretto un patto con i fratelli musulmani per non cambiare niente. E qui fa parentesi, credo, lo dicevi tu, mi pare, i fratelli musulmani sono cambiati moltissimo in questi anni. Oggi, leggendo il programma, appunto, questa delegazione giovane ci ha portato il programma dei fratelli musulmani. I fratelli musulmani oggi sono una forza di stabilizzazione liberista in qualche modo, cioè hanno in verità una doppia faccia. Il programma è molto di destra, molto liberista, è per le privatizzazioni assolute e così via, quindi apre in questo senso, fra virgolette, all'Occidente. La propaganda, poi i volantini eccetera, è un po' più cruda, sembra un po' una sorta di lega nei confronti delle popolazioni padane, come le chiamano loro, cioè in qualche modo è molto demagogica la propaganda, però l'assetto, diciamo, della politica economica e strutturale in qualche modo può permettere, questo può essere uno sbocco, può permettere appunto il rapporto con i militari. Noi di fronte a questo appunto non possiamo essere spettatori e tifosi in qualche modo inerti. Appunto finisco con la struttura che è l'ultimo punto che volevo ricordare, perché può essere utile per la riflessione su cosa accadrà dell'Egitto, la rivoluzione egiziana, appunto un paese di 85 milioni e oltre di persone, quindi è nodale questo. Samir Amin scriveva qualche giorno fa che sono quattro le componenti fondamentali del movimento rivoluzionario egiziano. In primo luogo i giovani, ecco la loro tecnologia moderna, internet, Twitter, eccetera, che non sono solamente comunicazione, ma uno spazio di vero e proprio dibattito a distanza. Cioè giovani anticapitalisti, dice lui, nel senso che considerano questo sistema inaccettabile. E il punto principale che ci interessa per la discussione di oggi sono profondamente nazionalisti, nel senso che l'Egitto non può e non deve essere sottomesso alla volontà di altri nel proprio ruolo nella regione e su scala mondiale, e non deve servire agli obiettivi strategici degli Stati Uniti. Questo è nel programma ufficiale, quindi è giusto quello che diceva appunto Maronta prima quando parlava appunto di movimento nazionale. Il movimento nazionale è molto molto forte. La parola d'ordine appunto è né un regime religioso, appunto né un regime ateo. Il termine usato appunto è civile, come ricordavo prima, quindi indipendenza nazionale e riforme sociali. E su queste parole d'ordine sono entrati nel movimento i sindacati operai rivoluzionari cresciuti nell'ultimo decennio. Esiste poi una componente forte in Egitto, al contrario degli altri paesi, di sinistra radicale. Ricorda Samir Amin appunto la presenza dei comunisti, che in Egitto hanno presenza ed autorevolezza. La terza componente è rappresentata da segmenti delle classi medie democratiche, di cui al-Baradei appunto è il rappresentante principale, che è una classe media molto composita, appunto medici, avvocati, ingegneri, stati superiori del lavoro salariato, funzionari e così via, e poi vi è la componente appunto dei fratelli musulmani. Ecco, io credo che di fronte appunto a questa situazione non soltanto è giusta questa riflessione che abbiamo appunto appena iniziato, ma credo che la riflessione debba continuare innanzitutto perché comunque dobbiamo svolgere un'opera politica e sociale, e poi perché non dimentichiamo che all'interno di tutte queste rivolte l'elemento della minoranza, delle minoranze, è molto importante. E quindi se parliamo di statualità, a me pare, proprio sul piano costituzionale, insomma, che è il mio mestiere, io credo che noi non possiamo non tener conto, non solo per la Libia, ma non tener conto per gli assetti futuri di questi paesi, addirittura geopolitici, che delle minoranze comunque dovremmo parlare, quindi di quale assetto? Le minoranze curde, le minoranze del Maghreb, le minoranze berbere in Kabilia. Ecco. Abbiamo prima parlato del popolo sarawi. Cosa farà l'Algeria nei confronti di queste minoranze? Cosa accadrà appunto nel Marocco? Ecco, io credo che noi quindi non possiamo eludere tutti questi temi, ancora per questo, e anche per questo appunto ringrazio ancora una volta lo spazio di riflessione come stimolo critico che l'Associazione per il Rinnovamento della Sinistra questa sera ci ha offerto. Grazie Giovanni, sono le 7:25, quindi io direi che possiamo salutarci, alla prossima appuntamento fra due settimane. Grazie. Sempre qui.